sanno cosa fai, alla sera dove vai, tutto solo senza me. Orologio fa le sei, chissà adesso dove sei, e più il tempo vola via, e più forte cresce in me questa dolce nostalgia. Penso a quello che dirai, alle cose che farai quando tu ritornerai. Io non so che giorno è, so che è un giorno senza te. Tu mi manchi, amore mio, e mi sto accorgendo anch'io come adesso ti vorrei. Quando un amore se ne va, anche se solo per un attimo, non c'è più niente che ti va, e vuota la città e tu ti senti piccolo. Quando un amore se ne va, quanti momenti che ritornano, e guardi il cielo su di te, ti accorgi che non c'è l'azzurro tra le nuvole. Se sono